Stiamo andando? Regia? Eccoci, allora, benvenuti a questo quarto incontro della seconda giornata del Festival di Letteratura Sociale. Questo è un tavolo aperto, una discussione pubblica sulla poesia contemporanea e abbiamo invitato alcune persone a parlare per un po' di interventi preordinati, ma vuole essere davvero una discussione aperta, quindi dopo un paio di giri di interventi l'idea è che chiunque voglia dire, domandare, contribuire abbia modo di farlo. Chi abbiamo invitato? Abbiamo invitato, li provo a dire nell'ordine in cui interverranno, Ivan Tresoldi da Milano, poeta di strada, artista poliedrico, performer, musicista, pittore, da più di 10 anni pratica salti poetici e poesia di strada in Italia e in giro per il mondo. Diffonde i suoi versi in luoghi pubblici e in contesti disparati, dai giornali e diari scolastici. È cofondatore di Arcademy, promotore del primo Festival Internazionale di Poesia di Strada che si è tenuto a Milano nel 2013. Accanto abbiamo Simone Burratti, fondatore di Forma Vera, studioso laureato in lettere e filosofia. Ha scritto poesia e di poesia in siti e riviste, anche con approcci critici. Vincenzo Romania, dall'Università di Padova, e dimenticavo, il Movimento per l'Emancipazione della Poesia, fondato nel 2010, che si preoccupa di riportare nei contesti pubblici la poesia, dal manifesto attraverso ogni canale ritenuto perseguibile, ma soprattutto mediante l'attacchinaggio e l'affissione delle poesie sui muri. E in ultimo Jessica Mazzotti, dall'Archivio Diaristico Nazionale, anche lei laureata in lettere e filosofia, anche lei ha scritto poesia e di poesia in siti e riviste, ha anche studiato e insegnato all'estero, in particolare in Francia. Abbiamo invitato loro a parlare di poesia, ma come dicevo appunto vuole essere questo un tavolo aperto, quindi i contributi di chiunque voglia sono i benvenuti. Facciamo, se siete tutti d'accordo, un paio di giri di domande in quest'ordine per poi allargare il discorso. La prima è quello che è il titolo di questo tavolo, le forme della poesia contemporanea, cioè quello che chiediamo è come sta messa oggi la poesia in Italia. Chiediamo a voi che da vari punti di vista la seguite, praticate o guardate, insomma, dove la si fa, chi la fa, in quali luoghi, in quali contesti, con quali modi. Insomma, uno spaccato della poesia nell'oggi, in questo contesto o non solo in questo contesto. Vi va di darcelo? Sono volutamente larghe le domande, anche la seconda sarà più o meno così. Io sono un po' desueto ai luoghi della poesia e anche agli ambienti della poesia per scarsa capacità e scarsa disciplina anche nell'attenzione. E quindi se mi chiedi come sta la poesia, che credo che sia qualcosa che dovremmo discutere tutti insieme, perché è la somma della moltitudine delle idee che ci lega sul concetto di poesia, che farà una poesia anche di questo luogo in questo momento. Io credo che la poesia presupponga l'idea stessa di poesia, addirittura forse l'idea di società. È come se la parola fosse un costitutivo elementare dello stare insieme, no? Si dice dare la parola, è quello che abbiamo, tanto vero che io faccio un po' l'artigiano, anzi credo che l'arte nasca dove l'artigianato diviene. E quindi Lessing diceva: o tu poeta ti levi tanto in alto per non essere udito. Credo che vi è una poesia istituzionale che soffre di diffusione, perché i poeti dell'Italia si diceva poeti santi navigatori, oggi diciamo pizza mafia mandolino, No, e nel delta, nella distanza semantica delle parole, ci sta la distanza del paese. I poeti scrivevano sulle colonne del Corriere, penso lettere agli studenti, la poesia viva Verdi, no? E quindi io purtroppo sono molto poco capace di poesia. E quello che mi interessa della costruzione di pratiche, cioè da dove la parola poesia arriva, cioè da poiesis, quindi fare, agire, abbracciare, parlare, è molto più legata all'efficacia. Che è un'efficacia di diffusione, ma è un'efficacia di relazione. Perché quando tu leggi e fai tuo un verso che trovi in strada, che trovi in uno spazio sociale, che trovi in uno spazio sociale che è anche intellettuale, sei tu il poeta che legge. E quindi la poesia non è mai cosa che posso commentare solo, è cosa che si può commentare solo con un altro, anzi, forse in termini di sintesi dialettica, è una cosa che porta poi due. Nel confronto a produrre una terza dimensione che è quella di sintesi. Quindi la poesia istituzionale credo che stia di merda, no? E siamo il paese che più stampa libri e meno ne legge. Io scrivo una sola poesia per la Smemoranda, che l'hai citato tu, però fa 1 milione di banchi. Ed è una poesia povera perché sono pure dislessico e quindi non so, anzi, sono sempre molto onorato e ne porto l'onere di poter stare vicino a persone che ne sanno molto più di me e che partecipano a questi luoghi, perché se no la poesia fatta solo di parole e di lettori che si autoleggono diventa una superficie, come era forse stamattina di là, per quanto ha già un senso. Invece a me interessano i luoghi e quindi io non so che dimensione ha la poesia oggi. Io vorrei una poesia efficace che stesse, vi provoco scenamente, come Fedez sta oggi al paese. No, poeti, santi, navigatori. Funziona? Ok, io sono abbastanza d'accordo su quello che diceva Ivan circa il fatto che effettivamente la poesia istituzionale, definiamola così, ma comunque sia, trattandosi di un codice, la poesia è quella roba lì e non altre, stia messa male, ma sta messa male come sta messa male da sempre. Nel senso, la poesia, diceva prima anche all'incontro con Costantini. Non ha mai avuto lettori, cioè ha avuto sempre pochi lettori e questa cosa è normale. Cioè, dobbiamo metterci in testa il fatto che questa cosa è normale. E questo cosa vuol dire? Che il problema che c'è oggi è più una questione di perdita di mandato che non di scarsi lettori, perché probabilmente i lettori di oggi di poesia sono di più di quelli che ce n'erano ai tempi di Montale. Qual è la differenza? È che quando Montale scriveva qualcosa, aveva comunque sia un ruolo che gli permetteva di dire: ok, quello che faccio io è poesia, quello che scrivono altre persone non lo è. Oggi questa cosa si è totalmente persa per disimpegno critico, per un'idea che c'è e la viviamo tutti i giorni, il fatto che chiunque può mettersi lì e scrivere un testo e dire di essere poesia, mentre invece quando chiamiamo un idraulico, per fare l'esempio, ci aspettiamo un idraulico, non ci aspettiamo un poeta, mentre invece quando cerchiamo la poesia pensiamo che tutti possano fare questa cosa, che può avere senso, perché effettivamente la lingua è qualcosa che usiamo tutti e quindi diciamo che è lo strumento umano che permette una maggiore specializzazione di questa cosa. Però la poesia non è così semplice. Quindi, appunto, parlavo di perdita di mandato, non essendoci più questa cosa, e soprattutto tenendo presente che ormai attraverso la musica pop, attraverso gli status Facebook, quella roba che una volta era, come dire, usata era proprietà dell'antimerce, se vogliamo dire così, ora quella cosa è stata assorbita dalla merce, nel senso. L'essere umano ha bisogno di parole, scusate se ogni tanto sfocio nel romanesco, ma non ci faccio apposta. L'uomo ha bisogno di parole, ha bisogno di persone cioè di testi che gli dicano quello che è la realtà e che aumentino la percezione della sua realtà. Questa cosa c'è. Solo che adesso il testo non viene più cercato nell'antimerce, e cioè in qualcosa che problematizza la realtà, ma viene trovato in qualcosa che asseconda il tuo pensiero. E questa cosa succede sempre, cioè basta andare a vedere gli status su Facebook, non so, sto pensando a, adesso non mi viene il nome, Nina Morich, insomma, che adesso prende e si mette a fare cose. La gente magari dice, ok, lei è un genio del trash, quindi ha senso, ha un senso diverso. Però nel senso, scrivere delle cose che la gente dice, ah figo, ok, anch'io lo penso così, ma tu lo pensavi già così, quindi la poesia non ti serve, perché non ti ha creato un casino. In teoria la letteratura e l'arte in generale è qualcosa che ti crea un casino nella testa. Questa cosa oggi si è persa proprio perché non si dà più, si dà per scontato che non sia questa cosa qui. E quindi, ecco, questo problema c'è. Detto questo, va detto anche che oggi nel panorama, diciamo, della poesia giovane, contemporanea, di autori nati negli ultimi anni, diciamo negli anni 80 e 90, non penso che ci sia un livello qualitativo inferiore agli anni precedenti. Nel senso, nonostante gli autori si trovino comunque sia a essere denigrati, a avere poco spazio, si è parlato prima di autoreferenzialità, questa cosa è vera, ma questa cosa è colpa del Novecento, non è colpa di oggi. Nel senso che nel Novecento la poesia non si capiva, perché si è slegata da un codice, perché prima appunto non la leggeva nessuno, ma tutti quanti potevano dire ok, questo testo è prosa più A più B più C, citando Barthes, e quindi uno diceva questo testo qui è stato scritto da una persona competente che è in grado di usare gli strumenti della poesia. Nel momento in cui questa cosa, dal romanticismo in poi, è stata interrotta, e quindi è stata aggirata dicendo a me non me ne frega più niente di scrivere in versi, non me ne frega più niente di scrivere in metrica e rima, e diciamo che si è un po' chiusa e in questo modo ha perso il pubblico, come è normale che fosse, come è normale che sia stato. E che è successo? Però oggi questa cosa è un po' diversa, perché la poesia di oggi molto spesso è poesia che funziona, che ti parla della realtà, della percezione della realtà, e che allo stesso tempo ha abbandonato quell'idea di incomprensibilità, di oscurità o difficoltà, parlandone con Fortini, che aveva un tempo. E questa cosa purtroppo non viene recepita, perché a meno che non sei la Szymborska che quando muori arriva Saviano, ti fa vedere il libro e ti dice leggete questa roba. Tra l'altro la Szymborska, al di là del fatto che sia brava o meno, è una poetessa che non problematizza le cose, e quindi è facile leggerle, è facile dire ok figo. E mentre invece quando ti vai a leggere un testo, non lo so, di De Angelis, può essere più difficile. E ecco, se non c'è quel medium lì che porta la gente a leggere così, la gente la poesia non la legge, perché semplicemente pensa che non ci sia. E però c'è, e si fanno anche cose belle. Parlo io. Mi ricollego un po' a questi argomenti e faccio una sorta di rapsodia per accadimenti che mi sono accaduti, appunto. Parlo di elementi un po' sparsi. Qualche anno fa vengo invitato da amici a Cavriago, avete tutti presente Cavriago, luogo mitologico per la storia della sinistra italiana, reggiana, non solo, quello cantato da appunto Max Collini in Robespierre, dove il Partito Comunista prendeva il 75% e la DC il 6%, e trovo un gruppo di poeti che si autodefinisce Dea Cagna, appunto riprendendo tema classico del decadentismo, che si trovavano sostanzialmente a bere tanto vino rosso Stalin. Avevano tutti le maniglie della porta con la testa di Lenin o quella di Stalin, avevano una serie di oggetti fortemente ritualizzanti appunto un'epoca, che è quella raccontata un po' ironicamente dai CCP, che era appunto quella dell'appropriazione reggiana del filo sovietismo più che del comunismo, no? E vedevi che in quel movimento c'era comunque una forte identità interna, anche se parlava a se stesso e non ricercava nessuna forma di vendibilità. Però lo continuavi a concepire, a sentire, almeno io in maniera profana, come un movimento un po' fuori luogo, nella misura in cui appunto ti sembrava ormai desueta l'idea di fare poesia per un'ideologia. Quello che rendeva l'autore di poesia alla Pasolini visibile nello spazio pubblico. Così come Sartre e Foucault, che appunto hanno ruoli diversi, autori di prosa e di filosofia, e di storia del pensiero, a un certo punto vanno, no? Partecipano alle occupazioni, hanno anche tutta una serie di responsabilità su loro proiettate fino agli anni 70-80. Se ci metti a confronto Diego Fusaro, ai giorni d'oggi, insomma, ti cadono un po' le braccia per terra. Allora, forse alcuni dei discorsi che si fanno rispetto ai poeti e alla centralità della poesia nella scena contemporanea non hanno a che fare solo col ruolo specifico del poeta, ma piuttosto con il senso dell'autore e dell'intellettuale in questa società, che è un po' scomparso per due motivi essenziali. Da una parte c'è un'idea dannunziana dell'intellettuale che, grazie a Dio, se n'è andata a quel paese. Dall'altra, che comunque resisteva anche in autori molto più importanti, no? Lo stesso Montale aveva costruito su di sé una sfera di mistero, di incomunicabilità, no? Che lo rendeva in una certa misura una sorta di guru da venerare, no? Anche legato a tutto il percorso che fino a Satura desatura il senso delle parole. E dall'altro lato c'è invece qualcosa di diverso, c'è l'idea che a un certo punto la poesia si fa pratica. Come dici tu, la poesia istituzionale c'è da una parte e dall'altra ci sono esperienze di poesia urbana. La cosa simpatica di quello che dicevi prima è che la poesia istituzionale, pur avendo perso un codice e avendo ormai una definizione molto basilare, asciutta di quello che è la poesia, sono dei versi, cosa significa il verso, andare a capo, perché non c'è un altro modo di definirlo, non c'è una formula metrica, una forma linguistica, neanche fonetica che definisce il verso e non definisce quello che non è un verso. Dall'altra però questi continuano a dire: noi facciamo poesia e sappiamo che questa è poesia e quest'altra non lo è. Cioè resistono in qualche modo tramite la legittimazione più delle istituzioni che non dell'estetica a questo processo, invece, che è un processo di, come ti posso dire, perdita di confini, slegamento dai confini del concetto poetico. Allora il senso della poesia quasi quasi ti viene più dal praticarla, dal performarla. In tal senso, scusate se sono un po' ripetitivo oggi, quello che avviene oggi è che la performatività dell'arte, che esisteva già negli anni 70, diventa più tipica della poesia di oggi. Ci sono esperienze diverse. Allora, intanto ringraziando Marco per essere qua, se uno guarda il MEP, guarda qualcosa di cui nell'Accademia si occupano in pochissimi, anche per un motivo terribilmente provinciale della nostra Accademia. In musicologia, per esempio, in Italia nessuno studia nulla dopo l'età romantica, così come non si studia nulla dopo l'età romantica, spesso neanche in letteratura comparata. Si arriva al duello tra neorealisti e non neorealisti, forse in Italia dopo gli anni 50, ma ci si ferma là. E non lo si studia perché in qualche modo non si vuole neanche negare il paradigma di quello che è poesia. Questa però è poesia sul serio del fare, quello che diceva Ivan, del toccare, dello sporcare il muro, no? Che è uno degli ultimi modi che restano in uno spazio in cui non viviamo più, non abbiamo più esperienza, non incontriamo più l'imprevisto, non abbiamo più un controllo reale su qualcosa che non sia rappresentazione. È tutto iperreale, per dirlo con Baudrillard. Invece noi riusciamo a far sì che qualcuno su Via Santa Reparata scriva: questa poesia mi fa schifo, che è la cosa fondamentale alla fine, cioè è il coinvolgere il lettore della poesia in un atto di partecipazione, che può essere un giudizio, può essere un apprezzamento, ma finalmente c'è anche chi dice: cazzo, mi fa schifo, no? Cioè, è quell'altro che gli risponde sotto: no, guarda che bella, no, stavo guardando qualcosa passando qua sotto. Allora, il senso delle pratiche può avere un effetto limitato se lo vedi dal punto di vista del movimento, perché appunto, come ogni movimento, anche noi in altre esperienze di Padova, hai tutte le difficoltà, i limiti espanderti, eccetera, eccetera. Però è qualcosa che rimette in gioco anche l'altra poesia, no? Appunto, che si confronta con la semplicità, con la prosaicità, con linguaggi diversi. In fondo, quello che sta facendo la poesia istituzionale italiana di oggi era qualcosa che vedevi già quando Calvino parlava con i semiologi negli anni 60 a Parigi, non c'è granché di nuovo. Cioè, sono tentativi di fare i libri più belli, di usare dei segni grafici, di usare addirittura gli emoticons su Facebook. Poi stringi, è un altro tentativo di sfuggire dai problemi, di sfuggire dalla ciccia, di sfuggire dalla realtà, di parlare di problemi sociali. Poi io da sociologo tendo più a vederla così. Ok, buonasera. Ci tengo a fare una piccola premessa, noi siamo qui in diversi, svariati, in rappresentanza di quello che è il movimento dell'emancipazione della poesia, così ben introdotto tra l'altro da te, in una rappresentanza non eletta ma spontanea, quindi siamo persone che fanno parte, cioè, diciamo, per rispondere alla domanda bisogna un po' premettere cos'è il movimento. Da che punto di vista parliamo noi? Cioè, il movimento per l'emancipazione della poesia è una moltitudine di persone diverse che in maniera diversa hanno fruito, esperito, scritto poesia e che per un motivo o per l'altro, diciamo per un motivo principale, si sono ritrovati, uniti, e collaborano e lavorano e si spendono in favore di quella che noi stessi chiamiamo appunto l'emancipazione della poesia. Anche solo guardandolo dall'esterno, diciamo, il fatto storico che si può vedere da quello che è il movimento è che evidentemente una crisi della poesia davvero c'è stata. Cioè, se così tante persone si sono riunite spontaneamente intorno a un unico obiettivo e hanno tra l'altro sentito così la necessità di gestire, diciamo, la loro azione in una maniera il più possibile pertinente, il più possibile contemporanea, per usare questo termine, però nel senso attinente, che avesse davvero un effetto tangibile sulla società. Diciamo che infatti noi qui non è che, come Ivan, non possiamo parlare da un punto di vista estetico delle forme della poesia contemporanea, non è una cosa che ci riguarda, che ci è, diciamo, permessa, perché potrei parlare io con la mia voce, ma non sarei me stesso, e noi invece stiamo portando un insieme di voci e appunto di persone che la pensano diversamente. Possiamo parlare piuttosto della poesia attuale in termini di azione, come diceva appunto Vincenzo, giustissimamente, cioè davanti a una carenza è stato necessario programmare un'azione efficace in questo senso. Dal punto di vista estetico, attaccandomi, se volete parlare voi, dal punto di vista estetico, attaccandomi a quello che dicevi tu appunto, non crediamo che sia il tempo adesso. Ah, ok. Non crediamo che sia il tempo adesso di mettersi a discutere su quale tipo di poesia sia più pertinente o sia più efficace, ma soprattutto di cosa sia la poesia più efficace, ma in generale, ma cosa sia adesso. Sentiamo che la carenza e il problema da cui è nato il MEP è in generale non tanto una scomparsa, perché dicevate bene, la poesia non è mai stata appannaggio di tanti, è piuttosto che siamo arrivati davanti a una possibilità di comunicazione e di interessamento nei confronti dell'arte da parte di una moltitudine che non si è mai vista, e non si capisce perché la poesia non mantiene effettivamente il passo. Ci sembra piuttosto che ci sia una carenza dell'interesse rispetto alle altre arti. Cioè, è strano che io la musica la sento, la vedo ovunque, mi circonda, mi bombarda, la poesia non ha la stessa azione, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Quindi, diciamo, più che un problema estetico bisogna chiedersi come riportare l'interesse, come far sì che le persone che ti ascoltano davvero siano capaci di ascoltarti, davvero siano interessati e abbiano davvero diciamo riportare appunto la coscienza di questa forma d'arte nelle... Io posso... un'ultima cosa allora vorrei dire, se, che magari proprio di fronte a questa crisi, quello che abbiamo visto dal punto di vista del movimento, da quando è nato fino a quando è adesso, è che questa crisi un po' si sta sanando con un tempo lentissimo, ma diceva bene Vincenzo, non per autoincensarci, lungi da noi proprio, però esperienze come quella che è il MEP, che comunque è poco personale, davvero, siamo talmente tanti che proprio dipende poco da noi qui presenti, come il MEP, come Ivan e tutte le realtà che sono a Milano e tutte le altre realtà poetiche che abbiamo incontrato nei nostri percorsi, grazie anche a luoghi di ritrovo e a comuni interessi, come può essere questo evento in particolare, come può essere il Festival della Poesia di Strada, di Ivan e degli altri a cui partecipiamo da tempo. C'è una realtà, appunto, la poesia istituzionale cos'è adesso? La poesia di strada è una poesia che cerca, di strada, la poesia urbana, come la vogliamo definire, una poesia che parte dal basso, diciamo. È una poesia che effettivamente sta riportando la poesia nella vita delle persone, se ne sente chiacchierare sempre di più di poesia, trovi sempre più interlocutori, quindi in realtà lo stato attuale della poesia è in ascesa, diciamo, almeno dal nostro punto di vista. Sì, no, io in realtà raccontavo solo, io ho fatto lettere e nel mio percorso di letture ci sono state delle cose che hanno attirato di più la mia attenzione proprio negli anni. E, la prima cosa è stata la teoria di questo professore, si chiama Francesco Orlando, che aveva scritto questa teoria freudiana della letteratura, dove praticamente, come diceva Simone, fa vedere come l'arte è efficace quando problematizza la realtà. Cioè lui aveva cercato di allontanare tutta quella psicocritica, che cioè un utilizzo sbagliato che si faceva di Freud nella critica letteraria, che era quello di magari psicanalizzare i personaggi o l'autore, la biografia dell'autore, e aveva fatto vedere come ciò che viene rappresentato in letteratura in realtà è un meccanismo, è un ritorno, secondo lui, del represso, cioè a livello sia individuale, cioè come esattamente funziona a livello individuale, la letteratura lo palesa in maniera palese il represso collettivo. E poi mi sono quindi un po' messa a leggere degli autori che secondo me andavano in questa direzione, cioè che portavano un po' in giro tipi di testi poetici o in prosa che rientravano nell'antiletterario, cioè tutto quello che, cioè, almeno nelle antologie, quando avevo letto per fare la tesi, dicevano che loro avevano sia uno stile sia una scelta di citazioni antiletteraria, perché sceglievano uno stile semplice, una lingua molto oralizzata, e facevano, tipo hanno fatto questa rivista negli anni 90 che è uscita per la Feltrinelli, che si chiamava Il Semplice, e dentro ci mettevano un sacco di testi strani, tipo sbobinature di una registrazione di un tizio di un paese che pensava di parlare col diavolo e quindi registrava ste cose, a volte erano vere, a volte non erano. Cioè c'hanno tutta questa ricerca in tutto ciò che è ripetizione, e la cosa principale era che loro dicevano, come aveva detto un poeta di Sant'Arcangelo che si chiamava Raffaello Baldini, parlando del dialetto lui, però questo discorso si può allargare un po' in generale, che ci sono delle lingue, in questo caso l'italiano, che portano avanti le parole e dopo arrivano le cose, mentre in dialetto arrivano prima le cose e poi le parole. E quindi questa tendenza che mi piaceva in loro, poi tipo ho avuto questo incontro fantastico con questo mondo dell'archivio diaristico nazionale, che è un luogo che dagli anni 80 raccoglie documenti autobiografici in tutte le sue forme, quindi testimonianze brevi, memorie, diari e lettere, e tutto questo bacino documentario viene studiato da varie discipline, tipo appunto antropologia, chiaramente sociologia, ma anche pedagogia o anche infermieristica, nel senso che appunto poi il processo di sistematizzazione della vita in un paziente o in una persona aiuta sempre anche come terapia, insomma. E quindi tutto questo per dire che io che ho fatto lettere, quando ho scoperto questi testi mi sono un po' incazzata, perché ho detto scusa, perché a me nessuno me ne aveva mai parlato prima, perché la quantità è enorme, perché ora vabbè c'è questo archivio, però ci sono a Roma l'archivio delle memorie migranti, ce n'è uno a San Marino, uno a Genova, cioè c'è a Bologna l'archivio dei film di famiglia, tutte queste realtà che sono, cioè danno espressione al represso questa volta come individuo, in realtà come persona che non gli si dà voce. E quindi io dicevo, cioè magari appunto noi a lettere ci fanno studiare Pasolini perché riesce a dare una voce autentica, a rendere la voce a chi non ce l'ha mai avuta, sotto proletariato, quello che è, e poi però non si va a vedere le fonti di questa cosa, cioè capito, e questi qui cosa dicevano di quello che hanno vissuto? È chiaro che raccontano solo quello che hanno vissuto, però credo che anche dal punto di vista letterario ci sia molto da analizzare, se proprio si deve analizzare in questo senso. E quindi questa cosa qui è molto simile all'idea del MEP di valore della poesia, sia come, vabbè, come azione, nel senso che comunque, cioè, per me è un impatto anche andare a leggere le vite delle persone, e soprattutto è un impegno concreto, cioè devi prendere e devi sapere che sono tantissime, quindi non è come dire oh, vado sul sicuro, vado in libreria, prendo Mann, è chiaro che bravo, grazie, ce l'hanno già detto tanti. Lì magari mi piacerebbe che questo tipo di testi, dove, che ci sono anche testi poetici all'interno di questi documenti, diventassero un po' patrimonio più comune, come diventasse un po' più comune il patrimonio poetico del MEP, perché cioè, a livello anche numerico, insomma, è un fenomeno abbastanza importante, secondo me, e dura, e più che altro aumenta sempre più, cioè continua ad espandersi, aprire sedi, eccetera. E niente, così. Sì, ce l'ho. Vai. Faccio una seconda domanda, in realtà per non togliere tempo poi al dibattito, a chi volesse intervenire, provo a compattare in questa seconda domanda un paio di suggestioni che mi sono arrivate da questo primo giro di interventi. Ovviamente è inteso che il passaggio adesso di microfono può essere una semplice risposta a quanto detto o aggiunta a quanto detto prima, quindi ben venga se chiunque si vuole spendere liberamente. Le due domande che volevo aggiungere nuove sono questa: a qualcuno ha già risposto, infatti mi sono state suggestionate dagli interventi che ho sentito. Il senso della poesia, mi chiedo dunque, della pratica poetica, allora oggi qual è? Una sua efficacia e qualità intrinseca, oppure la capacità di impattare, di significare qualcosa in qualcuno? Cioè, una domanda che pongo di nuovo in modo piuttosto lato, però sarebbe interessante se vi andasse di spendere qualche parola, quella di avviare discorsi, quella di cercare il massimo della qualità plausibile in un'arte e così via, insomma, non so. L'altra domanda era, è un po' stato detto il ruolo della poesia, ma allora il ruolo del pubblico, che più volte è stato menzionato in questi interventi, qual è? Il ruolo del poeta verso il pubblico, allora qual è? E l'altra domanda, che era quella preparata, vi chiedo uno sforzo non da poco di rispondere a tutto in una volta sola, vedi, infatti, ma non so se volete passo il microfono e si fa, ok, ruolo della, sì, e la seconda infatti era sulle prospettive, in realtà, cioè già che ci siamo l'aggiungo, alla luce di quanto detto, quali prospettive vedete voi in atto per la poesia, cosa ha gambe per andare, cosa ha da essere lasciato da parte, cosa da essere inventato, insomma, quali spunti di primavera a venire ci sono, insomma, e cosa invece è decadente, cosa sta per succedere secondo voi, insomma. Le altre domande erano sul senso della poesia, della pratica poetica e sul ruolo del poeta verso il pubblico e del pubblico. Facendo una fuga in avanti per ciò che non siamo e ciò che non vogliamo, e per la competenza del ruolo e per dar la voce alla fonte, che è anche D'Annunziano come idea. Uno, volevo fare una premessa forse nel ruolo e nella funzione e nell'idea. Il paradigma, per esempio, del produrre un libro è entrato a far qualità con una quantità della misura della poesia o del benessere della poesia. In verità pubblicare significa rendersi pubblici, quindi è quello il paradigma, quindi anche forse, non so, voi avete detto cose in cui ritrovo e ho imparato cose, e mi piace molto l'idea anche, quasi però nella mia idea pratica, nella mia mediocrità, ma che non è un'auto denigrazione, perché io credo molto al valore delle mie pratiche, alla disciplina del valore delle nostre pratiche, a quello che costruiamo collettivamente. Per me la differenza tra poeta, lettore, mondo istituzionale, fonte popolare, non vi è. Anzi, mi interessa abbatterlo nel linguaggio. La parola domani, per esempio, lo dirò. La parola volgare in italiano è qualcuno di scurrile, no? Mica sei proprio una persona volgare, mica una testa di cavolo. E in verità viene da volgo, no? Che vuol dire popolo. Quindi è interessato a qualcuno spregiare quella parola, affinché Dante ci scrive una parte fondamentale delle cantiche, no? Anzi, come per esempio, come si dice a proposito di disparità di genere, di oppressione, che si citava prima, come si dice in italiano, tutte le cose belle che devi condividere, no? È proprio una figata. Che bel culo, no? Che culo. E invece tutte le cose brutte che non devi condividere e dare riferiscono, no? Sei un coglione, sei una testa di cazzo. Come si dice generale al femminile? Come si dice diversamente uno che perde i genitori? Un orfano, no? Come si dice due genitori che perdono un figlio? C'è una parola che è desueta, ma non la conosco, ma non c'è la parola, perché è un tabù resistere alla morte del proprio figlio. Quindi la poesia è silenzio tradotto, è costruzione di società. E ancora prima è parola. Quindi il mio lavoro, per scarso impegno, disciplina e capacità, è quello di togliere, di uniformare. E credo che la poesia di strada, in quanto trovi una grande efficacia, ma è un'efficacia che è vecchia, io credo che siamo gli ultimi degli antichi poeti, perché le donne di Parigi, quando tornano a Versailles, anche che noi facciamo una pallacorda della poesia, che tagliamo la testa al re, scrivono le strade, perché sono le macellaie di Parigi che vanno a prendere il re, non sono gli uomini in quel caso. No? La forma più antica di scrittura degli spazi dove noi inventiamo la società, 10.000 anni fa, l'idea di comunità, si dicevano graffiti, no? Paleolitici. La forma più contemporanea di scrittura delle nostre strade che non riconosciamo, anonimia, si chiama graffiti, anonimo, senza nome. La poesia è il modo di tradurre il respiro di una società. Senza poesia non c'è società, e secondo me la poesia, già nel dirla, è errore. Non bisogna pronunciarla, perché è l'insieme grande in cui poi costruisci l'idea collettiva di società, di mondo istituzionale, di efficacia del canone, che sono cose che vorrei imparare, con cui confrontarmi. Aspettate che cerco il filo, non il filo del microfono, che questo ce l'ho anche troppo, cerco le tre domande. Vabbè, per quanto riguarda la questione del pubblico, io ho sempre pensato che la poesia debba essere scritta per tutti, ma non sia per tutti. Nel senso, dalla parte dell'autore deve esserci una volontà di arrivare a tutti e di scrivere qualcosa che rappresenti tutto l'umano. Ma allo stesso tempo la poesia non è una cosa che leggono tutti, è sempre stato così, è normale che sia così, e poi se arriveranno degli scarti, dei frammenti a tutti, sarà una bella cosa. E per quanto riguarda invece le prospettive, di recente si è anche parlato di una rinascita della poesia, perché si stanno facendo festival ovunque. Mi sentite così? Mi sentite meglio così o così? Ok, così. Si stanno facendo festival ovunque, appunto ci sono i MEP, ci sono varie cose che stanno facendo tornare a parlare di poesia. Il problema è che si parla di poesia, poi questo non c'entra con la poesia, nel senso che quella cosa lì ci viene a mancare lo stesso. Io su questo non la vedo bene, perché appunto la poesia probabilmente, come tutta l'arte, come tutta la letteratura, è qualcosa che ha a che fare con come dicevo prima, con crearsi dei problemi e guardarsi un attimo e vedere come stanno le cose e mettersi in discussione. Questo nella società di oggi è molto difficile, e dobbiamo accettare il fatto che ci sono stati dei periodi in cui appunto la consapevolezza, la coscienza umana individuale è stata più bassa di quella di epoche precedenti. Noi probabilmente siamo in questa epoca qui. Il capitalismo, se vogliamo farla grossa, ha generato questa cosa qui. Scusate. E questo vuol dire che, ecco, non la vedo rosea, anche se penso che un'introduzione, diciamo, a livello editoriale e comunque sia di diffusione della poesia, diciamo, istituzionale, come l'abbiamo definita oggi, che non penso che sia quello, però insomma, diciamo, una diffusione di quel tipo di poesia, che tra l'altro arriva molto meglio di quella del Novecento, farebbe del bene alle persone. Cioè, nel senso, se quando vai in libreria, anziché la persona che cerca la poesia, anziché trovarci lì al Damerini, ci trova un autore che ti crea problemi, per caso la persona X può fruire della poesia. E, per esempio, quello che stanno facendo i MEP, magari ne parleremo dopo, però a me crea problemi per il semplice fatto che l'idea di permettere a tutti di scrivere avalla in primo modo l'idea e la possibilità di scrivere piuttosto che leggere. E questa cosa, okay, qui non ho esempi concreti, perché effettivamente le persone che conosco qui dei MEP sono persone che leggono, però l'idea che ho quando leggo i testi è che sono testi fuori dal mondo nel momento in cui non leggono la poesia. E quindi abbiamo bisogno di gente, di persone che ci dicano cosa pensano del mondo senza conoscere le altre persone che dicono cosa pensano del mondo? Nel senso, è un problema che è insito nell'anonimato e nell'apertura totale, no? Questa cosa c'è. Poi ovviamente va problematizzata e bisogna analizzare i testi uno dopo l'altro. Però questa cosa c'è. E comunque, ricollegandomi poi sul senso della poesia, appunto su perché scrivere e cosa può dare all'altro, e in questo caso posso parlare solo da autore, nel senso, nel momento in cui io scrivo l'unica cosa che mi interessa è che quello, cioè l'unica speranza, utopia che c'è è che ci sia una singola persona nel mondo che sia in grado di leggere, che abbia la possibilità di leggere quel testo e che sia in grado di capire quel testo esattamente come lo intendevo io. Questo che vuol dire? Che ci sarà potrebbe esserci un'anima nel mondo che nel momento in cui legge un mio testo si trova riconosciuta in questo, e questa cosa, diciamo, non dico che chiarisce i problemi, ma dà una quarta dimensione alla sua vita. E questa cosa, se ci fosse anche una sola persona che è in grado di recepire questa cosa, vuol dire che ha funzionato. Ovviamente, cioè, la speranza in generale della poesia penso che sia più che tutti, cioè che la maggior parte delle persone riesca ad ottenere questo tipo di riconoscimento, ecco, mettiamola così. Però ovviamente è una speranza abbastanza vana. Cerco di mettere anche un'altra volta un po' di ordine nella mia testa. Comunque, la prima domanda era appunto il senso della poesia. Io direi una cosa: intanto non c'è un solo modo di fare poesia, quindi non c'è un solo senso di fare poesia, mi sembra abbastanza chiaro. Malgrado ci siano questi conflitti tra posizioni che vogliono essere un po' totalizzanti, no? Appunto, mettere i paletti, segnare il confine, si può convivere. No, appunto, non voglio fare il democristiano, però ci possono essere apprezzabili tentativi di fare poesia in modo diverso. Sul senso della poesia di strada, che è quello che mi sento più vicino in questo momento, ricordo un passaggio che mi è piaciuto tanto, di un'autrice che la critica letteraria italiana chiamava una finta tonta, che era molto meno tonta, è un pregiudizio mio comunque, molto meno tonta di Alda Merini, ed è Natalia Ginzburg, che dice a un certo punto: la scelta della parola deve essere una scelta di onestà. Allora, quel tema dell'onestà lo leggi bene in Tornando ad Annunzio, Piove, no? Che è una poesia costruita per il suono, che può avere un'onestà estetica, ma non ha un'onestà dell'esperienza. Nel diario della persona qualunque ci può essere una cosa scritta in maniera molto semplice ma onesta e appunto alta dal punto di vista dei significati. Questo non significa che bisogna a tutti i costi cercare il linguaggio povero, no? La povertà assoluta del linguaggio, o che si debba ridurre la poesia ma la trasparenza è essere in qualche modo una trasparenza di quello che si è sentito, di quello che si è vissuto, di quello che si vuole far sentire. Cioè, per quanto il concetto sia un po' assurdo, scrivere come se non ci ascoltasse nessuno. Scrivere come non ci ascoltasse nessuno, un po' come faceva Kafka, che abbiamo conosciuto leggendo Max Brod, no? Forse si aspettava che lo leggesse quella bella signorina che frequentava in quella piccola piazza di Praga, però non si aspettava di diventare, scusatemi l'esempio che facevo prima, Andrea Scanzi o Diego Fusaro, no? Quindi scrivere con un'onestà che dell'anima, non è autoreferente in sé, no? È un'onestà di quello che si sente, no? Di quello che si vive, delle prove a cui siamo costretti in tutti i giorni in questa situazione, che è un modo in cui si mette fine all'autore non per forza come autore anonimo, ma come autore che costruisce la fama e che usa il pensiero per la fama, no? I morti di fama, in un certo senso. Sarebbe bello, è un po' come quando vediamo dei dischi bellissimi, dopo un po' la band diventa famosa e ci annoiamo, perché appunto non c'hanno più fame, non c'hanno più nulla di sincero da dire. Allora, secondo me la funzione vera della poesia di strada è quella dell'onestà del sentire, non la chiamo neanche intellettuale, no? Del non dire per dire, ma dire per costruire. Il problema della memoria, e poi mi taccio, a che fare, mi ricorda un po' una storia che stiamo seguendo in un altro campo, perché se va bene finanziano un progetto europeo su come il punk ha creato una memoria diversa dell'Europa, una memoria oppositiva, no? Controculturale, eccetera. E lì il problema poi è trovare qualcuno che sia interessato a creare un archivio di cose che non hanno avuto un senso materiale, no? Ma che hanno avuto un senso esistenziale. Allora appunto sta onestà deve essere un'onestà esistenziale, esperienziale, secondo me. Quella è l'onestà della poesia, in fondo. Vedo che magari il problema della poesia appunto non è sempre che non si fa, non si scrive, eccetera, però è la diffusione, cioè nel senso non capisco perché non si riesca a trovare una maniera di far girare tutta la poesia possibile, cioè che è stata scritta adesso, farla girare adesso in modo che un po' si autoregoli da solo anche il giudizio degli altri, nel senso perché quando si parla così in maniera vaga mi viene da pensare alle case editrici che hanno tutta una maniera di fare, l'accademia che si chiude in questi circoli che mi fanno un po' rabbia, perché anche non mi sembra che siano, cioè mi sembra che siano ininfluenti un po', e quindi non dico superflui, perché è sempre bello leggere un saggio anche sulla minima virgola, eccetera, però mi sono un po' stancata, insomma, di questi discorsi, anche di seguire certe riviste. Sarà un gusto personale, sarà un bisogno mio personale di proposte un pochino più concrete da gente che ha tutti gli strumenti per poterle fare, capito? E niente, per me se riusciamo a aprire un po' dei dialoghi tra tutte le realtà che cercano di diffondere per ragioni loro, magari quello lo diffonde la casa editoriale per fare soldi, che, cioè dico vai, pubblico questo libro perché cerco il successo, non certo perché, insomma, è un po' vaga questa cosa, però secondo me è un po' più concreto il problema, perché a livello teorico mi pare un po' risolta, cioè la cosa, e l'ibridazione continua in tutti i campi e ben venga che vada avanti sempre di più, e parliamo insomma un po' di cosa si potrebbe fare, ecco. Sì, io ci tengo sempre prima di tutto a dire che parlo per il MEP, ma non sono la voce del MEP. Allora, dalla prima domanda, cioè quelle che sono le pratiche della poesia adesso. Io trovo che sia un tipo di pratica più che artistica, quindi che si sviluppi a livello estetico, una pratica che va più verso il sociale, quindi che si impronta a creare un nuovo modo di pensare, di vedere l'intera struttura della macchina, brutto termine, poesia. Il rapporto con il pubblico è un rapporto che viene regolato dal copyleft, quindi teoricamente un testo non si considera completo o potenzialmente incompleto finché non viene completato da chi lo legge, chi lo esperisce, chi disegna graficamente sopra e in ultimo sino a quando non viene deteriorato dal tempo. Quindi è bella anche questa dimensione della poesia che esce totalmente dai margini del commercio, di qualsiasi cosa che la vuole come stabile, cristallizzata. Per andare alle prospettive future, credo che la pratica, cioè il modo in cui stiamo operando adesso nel presente sia già una prospettiva futura, cioè nel senso essendo contemporanei, come contemporaneo è, per come ha detto in una poesia di Osip Mandelstam, il poeta contemporaneo è colui che cerca di ricucire, di rimettere insieme le vertebre spezzate della schiena del tempo. E in che modo lo fa? Guardando questo fascio buio, adesso concedetemi questa immagine. Noi guardiamo il cielo è buio, ci sono alcune stelle. Quel buio che vediamo non è altro che, non lo dico io, lo dice Agamben, è l'astrofisica. Quel buio che vediamo non è altro che una luce che corre più veloce. Quindi riuscire a guardare dentro quel buio e rivedere la luce e intingere il pennino, la penna lì dentro e riuscire a scrivere poi a sviscerare, e questo è il contemporaneo, quindi qualcosa che opera ma va al di là, cioè anche in modo visionario. E quindi c'è un'ascesa effettiva che si va sempre di più a configurare perpetuando queste pratiche. No, volevo aggiungere una cosa, a parte che viva dei bellissimi interventi, e mi fa piacere molto anche sia essere così incensati come movimento dai vari interventi, ma anche avere giustamente la critica. Infatti è viva anche il parere di Simone, che in parte mi pongo anch'io come un problema fondamentale, cioè il fatto che magari riportare, dare a tutti la possibilità di scrivere, poi possa abituare appunto a leggere e a non a scrivere e a non leggere, possa disabituare a un pensiero critico. Io penso che l'azione del MEP sia proprio per abituare a un pensiero critico, cioè dire un po' in forma esemplare, però questa è anche un po' una mia visione, staccandomi da me stesso membro del MEP, guardando il MEP. Penso che sia anche un po' in forma esemplare dire si può essere poeti, nel senso ci si può appropriare, si può considerare la parola e la poesia come un mezzo utile e si può riacciuffare questo metodo di espressione, che quindi adesso il MEP possa in potenza e poi anche nei fatti portare tanta poesia brutta è una cosa possibile, è vero, ma questo serve a creare un senso critico nuovo. Quello che è il futuro, quello che è la prospettiva è dentro questo, cioè noi dentro il movimento non c'è una selezione stilistica, non c'è una selezione contenutistica, si entra semplicemente perché si vuole agire in funzione della poesia e in favore della poesia, ma questo non vuol dire che all'interno del MEP non si siano da sole, spontaneamente, formate correnti, non si stia formando un gusto critico davvero moderno e del futuro. Cioè, se il MEP riporta, diciamo anche detta così un po' brutta, riabbassa l'asticella e per far sì che poi si possa creare un nuovo senso critico e per far sì che poi chi verrà a dire poesia verrà guardato come chi dice, come un poeta, e quindi verrà ascoltato, riflettuto, e semmai gli tireranno i pomodori, però ci sarà qualcuno che lo fa, adesso non c'è nemmeno quello. Quindi capisco bene e anzi approvo, però ora come ora è un momento importante e ne vediamo i frutti dell'azione nostra e delle situazioni simili a noi, e vediamo che forse è davvero la strada giusta. Poi chiaramente la prospettiva qual è? Anche dal punto di vista del movimento non possiamo dire vorremmo che le nostre pratiche diventassero la norma, perché magari noi fra 10 anni abbiamo pratiche totalmente diverse. Quindi piuttosto puntiamo verso davvero un ideale, come diceva Francesca, verso un punto irraggiungibile, verso una impuntualità, come diceva Nietzsche, costante, cercare di anticipare i tempi per poter portare avanti la carretta, insomma, questo senso. E poi arrivare anche verso la luce, la luminosità che ci aspettiamo un po' tutti quanti e che speriamo. Mi aggiungo subito ai ringraziamenti per gli interventi che sono stati fatti, condivido davvero, evviva. Mi piacerebbe rifare un giro, ci avrei anche cose da chiedere, però mi sembra più giusto proporre il microfono a chiunque abbia qualcosa da chiedere o da dire in totale libertà. No, io volevo solamente fare una piccola chiosa su quello che ha detto Nicco in riferimento all'intervento di Simone per quanto riguarda appunto il rapporto del MEP con il pubblico. E, io parlo appunto come membro del MEP a titolo mio personale, assolutamente non sono portavoce di nessun indirizzo comune, però io credo in una cosa, che siamo fondamentalmente arrivati e usciti da un periodo dal neorealismo in poi fondamentalmente in cui non si ha molta fiducia nel lettore, cioè anche prima si diceva la poesia non è per tutti, cioè la leggono ma la leggono solo poche persone, quindi c'è una situazione in cui non si ha fiducia nel lettore, che secondo me è derivata proprio dal fatto che la poesia adesso è dall'alto, cioè la poesia è un'arte gestita dall'alto, dove si ha la presunzione di capire quali sono i gusti, di capire quali sono le cose che possono o non possono essere lette, se te non sei in grado non leggi la poesia. Quindi secondo me quello che è l'intervento del MEP in questo momento è un intervento volutamente provocatorio. Il MEP non ha mai messo da parte le intenzioni provocatorie di ogni suo gesto e di ogni sua anche ideologia. Cioè il MEP si presenta e dice qual è lo scopo? Scomparire perché la poesia sarà emancipata. C'è una provocazione in ogni cosa, in ogni aspetto. E qual è questa provocazione? È dire io ho fiducia in te lettore, quindi te al momento in cui vai a leggere ci sono tantissime cose, di tantissimi tipi, ciascuno di noi ha la sua poetica, infatti ci può essere qualcuno che si riconosce nella poetica di Ivan, cioè della poesia come strumento sociale, qualcuno in una poetica di poesia individuale, qualsiasi cosa. Però io ho fiducia in te lettore, lettore non di poesia, cioè di te persona che ti ritrovi per strada e dici oddio, una poesia. Io ho fiducia che te sarai in grado di capire qual è il tuo gusto, di capire cosa fra questo è buono o non è buono, però l'importante adesso per poter arrivare a riportare la poesia alle persone è portarla di ogni tipo e di evitare appunto quello che c'è stato negli ultimi anni, che è questa movenza dall'alto, deve essere riportata dal basso in grandi numeri e in grandi forme adesso, poi fra un po' potremmo anche rivedere lo stesso il MEP, un movimento muove, si evolve, vedremo. Io sono molto pessimista, non vedo nemmeno tutti questi cambiamenti positivi che il MEP abbia fatto a livello sociale, che magari sono stati descritti prima, ma questo è un mio parere personale. Però è questo, portiamo grandi numeri a livello di anarchia proprio letteraria, in modo che tu, lettore, ti formi lettore. Poi dopo ti potrai formare lettore poetico, però intanto in prima cosa scoprila. Perché se la porti sempre dal lato di un certo tipo è chiaro che i lettori saranno sempre pochi. Questo è. Vabbè, aspetta, poi. No, per quanto riguarda l'anarchia letteraria sono d'accordissimo, cioè nel senso, visto come avete parlato appunto cioè l'intenzione, è una cosa che mi torna, cioè che ha senso, anche se non credo che una persona che non è fatta per la poesia legga poesia, perché la poesia, cioè, sopravviviamo benissimo senza, nel senso non muore nessuno, però al di là di questo il problema è che Io, cioè, parlo per la mia esperienza personale, cioè, se mi sposto e vedo un tot di poesie scritte là e vedo che queste cose, dico, cavolo, sono stupidaggini, potrei scriverle anche io. Questa cosa non ti porta verso la poesia, ti allontana dalla poesia, che ti dice, vabbè, anche perché poi passa questa idea, perché ora togliamo le persone che scrivono, togliamo le persone che studiano lettere, però cosa ci pensiamo che sia la poesia? Che siano una serie di versi in cui l'autore X interiorizza la propria emotività. Ecco, questo non è la poesia, è un'altra roba. È espressivismo, chiamiamolo come ci pare, può anche comunicare qualcosa, però non è la poesia, è un'altra cosa. E quindi, non lo so, quando una persona va lì e legge dei testi anonimi, che sono lì, tra l'altro l'anonimato è una cosa di cui bisognerebbe discutere innanzitutto per un problema di autoresponsabilizzazione. Nel senso, ok, prima parlavo con Marco e diceva appunto che ci sono dei testi che possono essere appunto rifiutati nel momento in cui possono risultare razzisti o quello che è. E però allo stesso tempo, non so, io questa è una cosa che vivo molto come autore, nei miei testi si parla spesso di questo personaggio, ma diciamo avatar, che è un S puntato, e che è praticamente una specie di esempio dello schifo del mondo, no? Mettiamola così. Nel momento in cui io, che ho scritto quel testo, mi presento lì, che potrebbe essere l'autore, diciamo, ma non è detto che lo sia, però nel momento in cui mi metto lì, mi alzo in piedi, leggo quel testo, io mi sto facendo piccolissimo per sembrare, cioè per essere quella persona schifosa di cui sto parlando, allo stesso tempo mi sto facendo grande dicendo, ok, io penso che questa persona schifosa possa rappresentare anche te come pubblico, cioè come lettore, come ascoltatore, dipende. E quindi c'è una cosa di responsabilità, che l'anonimato può creare problemi, però appunto, come dicevate voi, capisco che possa essere appunto una cosa temporanea, cioè nel senso un lavoro sullo scrivere, appunto, cioè partire come anonimi, cioè come orda, diciamo, che ti spamma quella cosa in modo che tu ci pensi. Il problema appunto è che non so poi se questo tipo di medium funzioni, per esempio, cioè ci sono altre strategie che paradossalmente funzionano meglio, e poi ok, io non le considero neanche io, però fondamentalmente hanno un senso. Per esempio, di recente c'era un gruppo Facebook, che non so se c'è ancora, una pagina che si chiama Nuova Poesia Troll, e ci stavano un paio di autori anonimi che scrivevano questi testi sgrammaticati, idioti, appositamente, cioè nel senso... mimando, diciamo, quella che è la scrittura dei quarantenni nel web, mettiamola così, e però funzionavano. Ok, questa cosa probabilmente non era poesia, cioè nel senso non ti dava effettivamente, cioè ti dava solo un satira, ecco, non ti dava una percezione altra della realtà. Però quella roba lì funzionava perché la gente lo leggeva, perché la gente si faceva due risate, però nel frattempo trovava cose, autori che credo, almeno per una parte lo so, erano persone che scrivevano poesie e quindi sapevano scrivere e c'avevano delle cose da dirti. Quindi ecco, è una questione secondo me di strategia in questo senso qui, cioè nel senso non so quanto funzioni, perché io quando mi trovo davanti a quei testi lì vedo che quei testi appartengono a un'idea di... Ok, ma se trovi... Sì. Avete sentito? No, cioè diceva che parlavo da un lettore che ha già un certo tipo di letture dietro e di esperienza dietro. Sì, il problema è che il lettore che non ha mai letto niente di poesia, mettiamo, quando si trova davanti a quella cosa, la prima idea che si fa è quella di una poesia che sia appunto quello che dicevo prima, espressivismo. Cioè io da solo che provo le mie emozioni e provo a trasmettertele. E questa cosa... cioè proprio è scientifico, non porta a dire ok cavolo forse vorrò leggermi qualcosa di poesia, porta a dire ok cavolo forse posso scrivere anche io. Ma no, cioè non abbiamo bisogno di tanta gente che scrive, abbiamo bisogno di tanta gente che legga. Non per un senso dialettico fino a se stesso, ma perché magari è interessante davvero, anche a me piace. Sì, sto riacciuffando un attimo le idee. La questione, diciamo, del non ritrovare, cioè, come diceva lei, sì, tu ti magari ti rapporti come un poeta e quindi magari giudichi in maniera diversa, e chi magari anche non ha mai esperito di poesia potrebbe, cioè, potrebbe pensarla come espressivismo, come insomma una forma, come quelle cose che si fanno dagli psicologi. Penso che nel caso particolare del MEP, ma sinceramente mi sento anche di parlare di davvero diverse cose che ho sentito, per esempio dai poeti del Trullo, dalle brigate poetiche rivoluzionarie, la poesia di strada, raramente si trasforma, cioè non raramente, nel MEP c'è una bella, bella fetta, bella grossa, però non è per niente così, cioè leggo tanta poesia sociale, leggo tanta poesia che parla di altra roba, e quindi secondo me non tanto l'argomento stesso, ma il contrasto che possa dare a un lettore trovare nello stesso formato poesie differenti possa anche aprire la mente su quello che può essere la poesia, no? Quindi non solo quella forma. Capisco anche bene. Per quanto riguarda invece il problema che c'è dietro l'anonimato, il tuo responsabilizzarti e farti piccolo o farti grande, io sull'anonimato del MEP ci ho riflettuto un bel po'. Penso che sia da parte di tanti che fanno parte del movimento, perché li conosco, li ho visti, che magari vogliono davvero essere poeti, una forma di castrazione violenta. Quindi più che deresponsabilizzarsi è davvero caricarsi il mondo sulle spalle, in un certo senso, anche senza voler, qui si sta finendo per fare un'apologia del MEP e non è chiaramente il nostro obiettivo, ma proprio in quel senso, il farsi da parte e ridursi a una sigla anche poco riconoscibile è proprio questo, perché si vuole far sì che rapportandoti alla mia poesia poi tu non sia non abbia pensieri di sorta che ti condizionino, e meglio ancora se tu la poesia non la conosci, se tu la poesia non l'hai mai letta, l'hai sentita solamente a scuola, perché in un ambiente, nel nostro oggi, davvero la poesia istituzionale è piena di, cioè davvero la risposta alla poesia è quella di un disinteresse generale, anche quella di aspettarsi una disonestà da parte di chi la propone, come diceva Vincenzo, davvero. E quindi un po' il modo in cui cerchiamo noi di rispondere è con l'interesse, e quindi con l'attivismo e con l'onestà, e quindi ognuno, padrone delle proprie poesie, mette il cuore in quella, si tira anche indietro per evitare di passare avanti agli altri che magari sono meno bravi di lui, per dirla, e basta, sentiamo anzi. Siccome abbiamo 20 minuti, perché poi il culturale finisce e si mangia e si suona, che comunque è super culturale anche dopo, in realtà niente, volevo aprire un po' al giro di interventi, ho visto che c'è già il microfono in mano, se va bene, sì, nel limite del buon senso chiedo interventi se possibile relativamente brevi, giusto per non esagerare nello sforamento del tempo, e poi facciamo un brevissimo se va qualcuno, giro finale e questo. Se posso presentarti, lo faccio solo per te, poi la smetto. Nicolas in realtà è di un collettivo di poesia orale che fra l'altro domenica sera terranno qui uno spettacolo, si chiama Fumo Fonico, ma è meglio che parli tu in realtà. Sì, sì, domenica non è propriamente uno spettacolo, un open mic, anzi, visto che siete tanto interessati qua alla poesia, vi invito anche a partecipare attivamente, perché mandando semplicemente un messaggio sulla pagina Facebook Fumofonico potete iscrivervi all'evento, vi saranno dati dai 5 ai 7, 10 minuti al massimo di palco dove potete esprimere la vostra arte orale, quindi non è soltanto limitato alla poesia, però prevalentemente sarà poesia, appunto. Io ho sentito tante giuste considerazioni, ho sentito delle cose che mi hanno anche un po', in particolare quest'ultima sul fatto tanto meglio se non conosci la poesia, non sai la poesia. È una cosa che sinceramente mi mette un po' in imbarazzo, perché non ritengo che qualcuno si debba... Siccome i poeti sono bestie egocentriche, lo sono tutti, nessuno escluso, e è l'egocentrismo che ti porta a scrivere, ed è giusto che sia così, è l'ego, devi piacerti, perché altrimenti non lo fai. È indissolubile questo binomio, Se però porti a scrivere delle persone che non hanno le capacità, gli strumenti più che le capacità, rischi che, appunto, come diceva Simone, in questo un po' sono d'accordo, si abbassi non solo la qualità, ma questo poi in realtà è un falso problema, adesso dico perché, però soprattutto il pubblico si deteriori. E in effetti il pubblico è stato forse uno dei problemi che è stato più sollevato qua, e si chiede perché c'è la mancanza di pubblico. Allora, in realtà il falso problema, lo dico perché quando si dice l'Italia è stata un paese di poeti, santi, navigatori, è vero, è da sempre. Tutti scrivono, tutti fanno poesia e ci sono i cosiddetti poeti della domenica, no? Sono quelli che si scrivono le loro poesie sul taccuino e se le mettono nel cassetto. E è sempre stato così, quindi è un falso problema questo in realtà. Ci sarà sempre ed è endemico. E, tant'è che infatti Fabio Chiusi, che ha fatto un bel inchiesta sull'Espresso recentemente, ha stilato che più o meno ci siamo sui 3 milioni, no, in Italia di poeti. Poi in realtà, se si restringe per bene il campo, siamo sui 500 fatti bene, o almeno di quelli che ci si conosce per bene. E infatti non ho ben capito cos'è questo concetto della poesia istituzionale. Io non comprendo il concetto. Come? Grazie. non comprendo il concetto perché ci sarà sempre chi, forse magari vi riferivate a chi pubblica con case editrici molto grandi, non necessariamente quella è l'istituzione. Io conosco tantissimi poeti che pubblicano per la Bianca Einaudi, beh, sono persone umilissime, non hanno niente di istituzionale. Se invece stiamo parlando di professoroni, Berardinelli è degli anni 60 che dice che la poesia è morta, quindi non lo caga neanche più nessuno. Se invece parliamo di Mengaldo, stiamo comunque a guardare le sue antologie, però sapendo che, come diceva Sanguinetti, ormai sono diventati degli elenchi telefonici. A proposito di Sanguinetti, avrei citato più lui che Milo De Angelis per quanto riguarda la difficoltà nel leggere una poesia contemporanea, che per quanto io lo ami, alcuni testi sono impossibili. Per quanto riguarda il pubblico, e qua cerco di sbrigarmi, il problema sta a monte ed è il rapporto col media, cioè col libro. Perché manca il pubblico? Perché manca il pubblico del libro. Per quanto in dati relativi in realtà il numero dei lettori sia sempre stato stabile, noi continuiamo a sentire l'Istat che ci dice che cala, però in realtà il numero relativo, quindi perché siccome la popolazione aumenta, è rimasto praticamente sempre stabile dagli anni 50 in poi. E ci sono stati anni che abbiamo definito molto più culturali di quello attuale, no? Stiamo parlando per esempio degli anni 60 e 70. Questo perché? Perché il libro non prende più. Ed ecco perché infatti la poesia in realtà, voi dicevate che ultimamente non sta messa bene, io invece la vedo messa molto bene, perché si sta ritornando alla sua dimensione naturale, che è quella dell'oralità, perché la poesia è nata orale in Grecia, lo sappiamo tutti quanti, l'abbiamo studiato. Tutti questi moti di spinta per la poesia orale hanno fatto sì che il pubblico si sta ricreando effettivamente. Con il Poetry Slam, io che ho avuto l'onore di far parte della Lega Italiana Poetry Slam e tuttora ne faccio parte, organizziamo 200-300 slam all'anno in tutta Italia e siamo riusciti ad arrivare in palchi con 10 poeti strabilianti, uno attualmente a Barcellona a fare un tour e 700 persone anche paganti. Non sono numeri da poco, a mio avviso. È vero che mancano i lettori della poesia, rimarrà sempre una cosa di nicchia, è fatta così, non si può cambiare quello. Quello che si può cambiare è aumentare la fruibilità. E come? Cambiando il mezzo, il media, il medium. Ecco perché, per esempio, ci si sta interessando non soltanto dell'oralità, ma anche attraverso i nuovi media. Per esempio, un video su Facebook di una poesia di 3 minuti può fare fino a 6.000 visualizzazioni di una ragazza, non faccio il nome, però una poesia tranquillissima, niente di che, 6.000 visualizzazioni. Sono 1.000 copie in meno di quello che ha venduto la Candiani sulla Bianca Einaudi, che è il libro più venduto degli ultimi 5-6 anni, forse 10. Di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo semplicemente superare questo mezzo. Allora superiamolo, facciamo questo genere di prova. Quindi piuttosto che domandarci il perché, facciamo il passo avanti. Diciamo dove possiamo andare, visto che siamo proiettati così tanto sul futuro. Allora scopriamo effettivamente che c'è tutta una dimensione che già si sta muovendo in Italia. E le inchieste sull'Espresso, su Repubblica, perché ormai stanno uscendo ovunque. è l'effetto esatto che noi stavamo cercando, cioè ricreare l'interesse. Ecco perché si stanno creando sempre molti più eventi ovunque di poesia. Questa è una bella prova, anche perché c'è un bel pubblico nutrito di ciò, ne sono assolutamente contento. Ma è altro, è anche, diciamo, il modo che ci deve spingere e dire ok, siamo nella direzione giusta, però facciamo il passo in più, andiamo direttamente al verso successivo, vogliamo fare il futuro, siamo qui. Perché quando si parlava invece di rottura di canone e di codici, quello io lo imputo ovviamente alla neoavanguardia, come hanno fatto tutti, però è stato un bene. Io adoro la neoavanguardia e li ringrazio per quello che hanno fatto, perché la rottura di codici ha permesso che effettivamente la poesia potesse arrivare ad un pubblico espanso. Ma adesso espandiamolo, davvero, perché in realtà la poesia è qualcosa che al momento si sente come necessità. È un valore che non è perduto, anzi, secondo me è ben presente. Ciao a tutti, mi presento, sono Elisa. Volevo ringraziarvi perché io ho scoperto moltissime cose ascoltandovi ed è stato molto molto bello. E, diciamo, vi illustro la sintesi che ne è venuta nel mio cervello. Ivan, quando tu parli di anonimato vorrei capire che cosa intendi, perché se tu parli di farlo, no? Quando tu lo fai hai parlato di una scarnificazione, è esattamente questo, cioè mettersi a nudo, rendersi pubblicamente nudi ed eliminare, no? E questo secondo me è la grande capacità del poeta, stare nudo di fronte a tutti, è proprio questo il punto. E quello invece che fate voi, e quindi questo ti volevo chiedere, cioè che cos'è secondo te l'anonimato? Perché io concordo con lui nel sostenere che ci sia un ego forte, è necessario, e però questo non, in qualche modo non sarebbe di alcun danno se arrivasse a più persone, cioè se ci dovessimo scarnificare tutti e diventare tutti nudi l'uno di fronte all'altro, che cosa, forse arriveremo al nirvana, non lo so, quindi... Quindi sì, chiarire l'anonimato e ringraziarvi tutti in realtà. A parte grazie a te. Se vi va bene facciamo ancora, se qualcuno vuole intervenire, finiamo con gli interventi prima di ridare parola ai relatori, insomma. Se qualcuno, senza ovviamente doveri. Sì. Marro in piedi. Vabbè. Ciao a tutti, io sono Letizia e da diciamo assolutamente mi potrei definire ignorante a livello di arte, di poesia e di cose simili, perché ho avuto un'istruzione che mi ha portato verso lingue e non verso l'arte. Nel mio interesse non c'era né arte né poesia né nulla di tutto questo. Con il tempo ho imparato a scoprire l'arte, quindi mi sono infilata nei musei, a livello istintivo ero attratta verso alcune cose. E questo ha fatto il MEP per me, nel senso che girando per Firenze, prendendo coscienza di cosa fosse il MEP, più o meno, perché era proprio una cosa che vedevo, mi ha fatto affezionare a dei posti che non avrei mai considerato prima nella città, perché ci passo per caso in quei posti, perché ci passo perché sono scorciatoie verso altri luoghi. Quindi niente, io vi parlo da, per l'appunto, lettore assolutamente fuori da ogni contesto, perché non passo per la città per, non lo so, per leggere poesie o perché vado in un luogo specifico. Io come lavoro faccio tutt'altro, faccio l'orafo, quindi è altrove il mio interesse. E per me l'anonimato è sempre stato molto importante, nonostante per l'appunto all'inizio non conoscessi esattamente le regole o comunque perché rimanessero anonime queste persone. Spesso quando vedi un quadro, quando vedi un qualcosa che ti interessa, cerchi l'autore, no? Subito. E il fatto che l'autore in questo caso sia una sigla e non un nome ti porta sempre nel dubbio di chi fosse quell'autore, perché io non ho una memoria ottima, lo so. Quindi tutte le volte c'è della confusione, però questo non è limitante, mi porta a essere più interessata verso tutta quella lettera. E per il MEP, cioè, se c'è, non lo so, una F, una D, una A, cioè, ce ne sono tantissime. Quindi è più un'apertura che una chiusura, perché io non mi ricordo poi la sigla, dopo la quarta volta che lo leggo forse me lo ricordo. Però è stata una bella scoperta, è stata una bella scoperta e mi ha molto più avvicinato alla poesia rispetto a quella istituzionale, o comunque quella, no istituzionale, quella pubblicata dalle case editrici, perché se tu compri un libro di un poeta, tu sei legato a quel poeta per un particolare motivo, quindi c'è un qualcosa che ti apre un mondo verso quel poeta e poi tu inizi a esplorare. Però io non mi sono mai sentita tanto interessata da una poesia, tanto interessata verso quel poeta da dire vado in libreria e compro un libro solo di questo poeta. Anche verso i libri, cioè riesco a scoprire tramite le biblioteche quali sono gli autori che mi interessano e poi allora eventualmente scelgo chi andarmi a leggere, però siamo tutti una generazione più o meno, cioè siamo studenti o comunque non è che abbiamo i soldi che escono da orifizi nascosti, quindi nel senso è molto istintivo e niente, volevo dire questo, vi ringrazio. Io vorrei dire intanto grazie a chi sta intervenendo, perché non so se è solo una percezione mia, ma mi sembra che si stia volando parecchio alto. E dunque davvero grazie a tutti. Se ci sono gli ultimi due interventi, è questo il momento, prima di un giro finale, se qualcuno ha qualcosa da dire. Meno tre. Ci sei? Vado? Una mia riflessione sul senso della poesia, quindi una delle domande poste che mi è sorta, insomma, mettendo un po' insieme le cose che ho sentito finora, riguardo l'autenticità umana, se vogliamo, ovviamente con due premesse, parlo sempre a titolo personale, non perché ogni membro del MEP è un individuo pensante con le sue idee, quindi anche questo è il bello secondo me del movimento, tra l'altro, e la seconda premessa è che ho una formazione che non si avvicina, anzi più lontana di lingue, non si avvicina per niente alla letteratura perché è una formazione scientifica, quindi spero di non dire banalità, però riguardo al senso della poesia e soprattutto l'attività del MEP, secondo me un altro punto di interesse, che è anche uno dei valori fondanti del movimento, è la gratuità. Cioè, la poesia, i membri del MEP cosa fanno? Regalano poesia con un senso, con uno scopo preciso, il senso della poesia. Cioè, a mio parere, diamo spesso per scontato di avere di fronte un pubblico, qui si parla spesso di pubblico con formazioni di diversa qualità, di diverso spessore, eccetera, eccetera. E a mio parere trascuriamo spessissimo che ci sono vaste, non so quanto vaste, ma comunque ingenti parti della popolazione che non hanno nessun tipo di formazione, che sono completamente disinteressate alla letteratura, per esempio anche in quartieri periferici, degradati, dove hanno moltissimi problemi e si vogliono occupare di quelli in generale. E quindi cosa facciamo? Andiamo a regalare poesie in posti inaspettati, a mio parere sempre, anche per far capire che esiste, cioè, ogni individuo è un individuo pensante con un mondo interiore che poi regala scrivendolo sul muro. Ok, può anche essere un solipsismo, un'espressività che rimane tua e basta, uno la legge e dice vabbè lo potevo fare anch'io, però c'è qualcuno che l'ha fatto e te l'ha regalata. E questo come avviene? Avviene al di fuori, ho sentito anche parlare di cioè la macchina della poesia, avviene al di fuori del meccanismo commerciale, cioè non è una commercializzazione, non è qualcosa, non è una comunità, una comunicazione produttiva, non c'è niente di economico, di produttivo nel senso proprio di macchina consumista che produce e consuma. No, infatti, però il punto è che la poesia che facciamo va a colpire provocando, sempre il tema della provocazione del MEP, provocando in posti dove la poesia di case editrici, la poesia che abbiamo definito istituzionale, non molto ben definita, ma insomma sappiamo a cosa facciamo riferimento, bene o male, non arriva per niente proprio. Non ci arriva per niente. Questo secondo me è un grande valore, cioè la gratuità del mostrare che esiste un mondo che magari viene trascurato in parti della popolazione che non se ne interessano. E per questo, per esempio, anche a Milano, a Pavia, cioè, le nostre attività vanno nelle zone periferiche, nelle zone dove non c'è nessuna attrattività culturale, non c'è nessuno stimolo culturale. Quindi c'è un rischio grossissimo di appiattimento anche degli interessi dei giovani, delle persone comuni. E questo secondo me potrebbe essere un buon senso della poesia. Perché la poesia è usata in questo senso? Proprio perché è autentica, cioè riesce a colpire subito. Sono 4 righe, l'avresti potuto scrivere anche te, sono d'accordo, però ti danno una finestra su un mondo autentico quanto il tuo. Quindi ti danno una finestra sull'altro che tu puoi cogliere in maniera gratuita e che ti vuole cogliere perché provoca, la trovi sul muro accanto a casa. Basta, una riflessione. C'è spazio per un ultimo intervento. Allora, io parlo da... cioè, non ho una grande cultura per quanto riguarda la poesia e la mia semplicemente osservazione adesso è un grazie. Perché per quanto voi magari... cioè, secondo me dovete avere molta più fiducia sui lettori in strada, perché appunto io non ho una cultura per quanto riguarda la poetica, però ho studiato anche un po' storia dell'arte e quando ho visto le vostre poesie per strada mi avete ricordato un sacco artiste come Jenny Holzer, Barbara Kruger, che comunque operavano così, mettevano dei poster per strada con delle parole belle, precise, con un senso, una logica, cioè volevano mandare un messaggio. E io davvero vi voglio solo ringraziare perché mi avete buttato in faccia la poesia che mi fa fermare, cioè io ho notato proprio che a volte mi blocco, cioè quando vedo una poesia che magari mi prende, cioè smetto di camminare. E quindi secondo me è molto molto molto importante questo, perché se nessuno mi ha dato a me la possibilità di avere una cultura poetica e ci siete voi che state facendo questo, forse forse come me, ma anche come tante altre persone qua, come sto vedendo da tutti i vari interventi, ci hanno voglia di interessarsi, ci hanno voglia di magari, non lo so, appunto, farsi una cultura. Però è difficile, almeno dal mio punto di vista, effettivamente se io vado in una biblioteca non so chi cercare, non so se quell'autore magari che sto cercando può dirmi qualcosa che a me magari lì per lì mi può interessare, cioè sono veramente ignorante effettivamente, però così involontariamente voi me la fate arrivare, quindi per me è semplicemente un grazie. Se qualcun altro sente il bisogno, la necessità di dire qualcosa, è il momento, no? Facciamo un giro finale di intervento, dai. Allora sì, se va bene, facciamo un giro finale di interventi a ritroso rispetto a come l'abbiamo fatto prima, per estro e creatività. Libero? Libero? Cioè, okay. Senza esagerare. Certo. No, io volevo un attimo appunto parlare del ruolo del poeta all'interno del movimento, ecco, per come ne riesco a parlare io. Il ruolo è fondamentale. Perché quello di cui ha bisogno il movimento per l'emancipazione della poesia, quindi un movimento dinamico, è una forza dinamica dentro di sé, è un poeta milite, diciamo noi, militante che appunto agisca nei confronti e nella direzione dell'emancipazione della poesia. Da qui si capisce che le scelte fatte dal movimento, che sono anche cambiate nel corso degli 7 anni dalla sua nascita e che cambieranno ancora, fra queste appunto si è parlato di anonimato, si è parlato di non porre una selezione ai propri testi, perché si va appunto verso un copyleft, verso un'emancipazione totale del testo. Anonimato, si va verso un testo privo di personalismi e quindi privo di catalogazioni di autori, ma soprattutto ciò che mi preme di parlare è la strada, poesia in strada. Non poesia di strada, la differenza noi ce la vediamo abissale addirittura. Portare la poesia in strada significa per noi appunto rifarla vivere, come questi due interventi hanno testimoniato. Ciò che voglio dire è la strada ti permette di essere canale e di arrivare a una, potrei dire, arrivare a regalare il tuo testo al bambino di 6 anni che c'è a scuola, al vecchio di 80 che invece torna a casa. E questo è per dire anche che una poesia che non può piacere o che appunto è scritta male, è sgrammaticata, si porta però appresso quell'altra, che magari invece ti può piacere di più, ti può piacere di meno. Questo è dato dalla forza, e riuso una parola utilizzata un mese fa circa a Padova, di un'organizzazione dell'irruzione che ci permette, grazie all'orizzontalità che c'è all'interno del MEP, di portare nel giro di un mese, di stampare 300-400 poesie per nucleo, volendo, e attacchinarle in giro per la città. Questo significa che, grazie al MEP, la poesia c'è, la poesia viene stampata e letta in forma io direi potentissima, perché ogni città, e ci sono città in ogni capoluogo italiano e anche esteri, stampa per tutti i movimenti, stampa per tutti i nuclei del movimento. Quindi non c'è un ragionamento, diciamo, singolo della città, ma un senso più totale, una direzione comune. Questo, dicevo, come organizzazione appunto del nostro movimento, orizzontalità di rapporto. Passo subito la parola a Vincenzo, ma volevo dire, sono d'accordissimo con quello che ha appena detto Giulio, in risposta a quello che stavi dicendo tu, cioè è vero, il medium del libro non funziona più, troviamone altri, internet è una buona risposta, bisogna responsabilizzare e farlo, ma la strada è potentissima ed è una cosa vecchissima e funziona di brutto. Fine. Chiudo dicendo una cosa, appunto, anche io vado al ritroso, autenticità può essere anche autenticità dell'immaginario, no? Liberarsi da un'egemonia, e in quel senso chiarisco un'altra cosa, per me c'è una differenza tra l'essere individuo come poeta e essere soggetto come poeta, che ha due conseguenze. Una è che anche il collettivo può essere egocentrico, e quindi non soltanto essendo autori singoli si può essere. Il collettivo 60 era molto egocentrico, no? Madonna. Due, che essendo soggetto, appunto, ci si dota di voglia di trasformazione, no? Mentre l'individuo si perde, appunto, nella polifonia. Ha il suo quarto d'ora di successo come bello figo, ma finisce lì. No, io volevo solo aggiungere una cosa che prima aveva detto Simone, no? Cioè, che ti dicevi, alla fine quando ti vedi una poesia sul muro non tanto ben fatta, questa cosa ti allontana dalla poesia perché pensi, vabbè, l'avrei potuta scrivere anch'io. E per me è invece una virtù il fatto che ti spinga a scriverla anche te. Vuol dire, se io scrivo e un'altra persona mi viene e mi dice «Oh, ma io non lo so, ma secondo te posso scrivere?» A voglia, certo. A me chiaramente non mi toglie niente, anzi mi aggiunge. Quindi per me la diffusione che stimola la produzione è un po' anche lo scopo di tutto, del senso poetico, del senso di tutte le arti, nel senso tutti... abbiamo, aspetta, c'era una frase che avevo letto un po' di tempo fa che diceva per chi sa riconoscerne i simboli, ogni luogo è pieno di una vita immensa. Non ogni luogo solo, però ogni persona. Cioè, ora vabbè, peace and love, che sembra una visione un po' troppo armonica del tutto, non c'è solo questo, però secondo me deve essere anche importante il fatto che io come mi pongo facendo la mia arte, devo sottintendere con essa che anche tu, chiunque tu sia lettore, puoi farla e magari puoi farla anche meglio di come l'ho fatta io. Insomma, provaci a fare qualsiasi cosa, cioè che tutto sia un po' un invito concreto a fare, insomma, arte e tutto. No, beh, riguardo questa cosa, io penso che sia una differenza tra il... sono breve. Cioè, penso che sia una differenza tra il dire ah, questa cosa la potevo scrivere io, o ah, cavolo, questa cosa avrei voluto scriverla io. Cioè, c'è un po' la differenza. Sì, questa cosa non lo so, perché cioè, scrivere è una cosa bruttissima, signori. Nel senso, cioè, è un problema. Un conto è svegliarsi la mattina e dire ok, e chiunque può, io come persona, chiunque, qualunque, posso mettermi lì e dire un pensiero e lo scrivo. Un conto è che una persona sta di merda per un tot di cose, lavora per capirle e dopo tot mesi arriva a un livello di formalizzazione di quel testo che è un'altra cosa. Cioè, c'è uno scarto tra queste cose qui. Comunque, vabbè. Nel senso, la prima volta che ascolti per esempio By This River di Brian Eno, dici cazzo quanto è semplice sta scala a scendere, la scriverei anche io, poi ti ci metti a scrivere e non sei capace. Allora penso che anche loro a un certo punto si fermano, dico la prima volta la vedo, mi sembra facile imitarla, poi vedo che il prodotto non è granché, mi ci fermo. Poi la responsabilità che dici tu magari c'è lo stesso, no? Boh. Finisco poi, l'ultima cosa. Sì, sì. No, l'ultima cosa era appunto per quanto riguardava quello che dicevate voi. Per me, per esempio, cioè, se si vuole diffondere la poesia, avrebbe più senso prendere poesie di gente e diffondere quelle e non le proprie. Questa cosa, per esempio, che so, c'è un mio amico americano, pazzo finito, però un sacco simpatico, che quando andava in biblioteca prendeva delle poesie belle di gente e le metteva dentro i libri delle persone che si erano alzate per andare a fumare una sigaretta e quindi questo qui quando apriva il libro trovava una poesia. Cioè questa cosa effettivamente sì. Però ecco, diciamo che c'è meno egocentrismo in questa cosa qui. Questo vuol dire anche che effettivamente, ok l'anonimato, però è anche vero che quando tu vai a leggere molte poesie, appunto io non le conosco tante, insomma sono andato un po' sul sito, quello che si può, quando ti ritrovi che c'è molto più egocentrismo, e cioè concentrazione su quello che si crea, quello che si pensa e su quello che si prova da, come persone che scrivono, cioè come se stessi, insomma, che non in altre poesie che appunto sono con nome e cognome, ma magari ti parlano di altro. E poi sì, una cosa che però ne parliamo dopo perché altrimenti finiamo la mattina, per quanto riguarda la poesia orale io ho un po' di problemi, nel senso sono d'accordo sul fatto che il libro sia un medium che effettivamente sta funzionando meno, però c'è anche da dire che avere un approccio diciamo quasi solo orale al testo secondo me porta, come succede nei Poetry Slam per esempio, non è detto che sia sempre così, però per adesso siamo a questo stato qui, a un testo che susciti qualcosa immediatamente al lettore, mentre invece, cioè, secondo anche la linguistica, la lingua poetica è tale perché è ridondante, perché devi tornarci, e quindi almeno oggi è così, un tempo non lo era, però nel senso c'è questo rischio del fatto, ok, come vai, quando vai al Poetry Slam la persona nei Poetry Slam di basso livello, quando arriva la persona che urla di più, che ti fa più effetto di qua e di là, allora vince quello. Però non è detto che quella cosa, quella persona mi stia dicendo cose sensate. Quindi c'è questo rischio, poi ovviamente sta agli autori a girarlo. A mio parere, il problema con la qualità e la distribuzione nella poesia in strada, di strada, è che in strada operi con un presupposto metafisico. Cioè, nel senso, noi si dà per scontato che ci sia un Dio ordinatore che porta quella persona a leggere quella cosa lì e quella cosa gli piace, che è assurdo. Però è un miracolo che negli anni abbia avuto proselitismo questa cosa. E se si pubblicasse, stampasse solo un certo tipo di poesia, a questo punto si farebbe l'emancipazione di quel certo tipo di poesia. Lo fai con il microfono, se non ti scoccia. Mi sono espresso male. Quando ho detto anonimato intendo sul senso e la definizione della poesia. La poesia prescinde dalla sua definizione. Ok, non è ombra. È per questo svuotarla, ne dovremmo parlare il meno possibile per coglierla. Poi io sull'anonimato come autore sono partigiano altrove, perché io a differenza del MEP la faccia e il nome ce lo metto e lo considero una pratica di fondamentale nel mio percorso, responsabilità, presenza ed ecocentrismo, che poi è una pratica imprenditoriale differenti. E però col tempo anch'io ho guardato, perché la poesia di strada mica l'ha inventata mai qualcuno, e c'è da i futuristi mettevano poesie sui muri. però tanti anni sono stato un po' solo, no? E nei nostri incontri capisci che testimoni e sarete soli vostra volta e passerete vostra volta testimone. Però ho capito una cosa con il Movimento per l'Emancipazione della Poesia, intanto per citare altri, che la moltitudine, il tutto, è molto maggiore della somma delle sue parti, e quindi voi avete una moltitudine che esprimete, che in più vi accompagna. E per l'onestà io mi sono dato una regola che non riesco a rispettare, per questo diventa da libertario, no? Esiste una società organizzata senza autorità alcuna, questo dice l'anarchia che prima citavamo, non è che ognuno fa quel cazzo che vuole. Io cerco il più possibile di assomigliare alle parole che dico o che mi costringono a dire, come quelle che ho detto stasera. E ci sarà cospirazione, perché nell'incontro io partecipo molto poco a questi contesti e ne sono affamato, anzi in verità, e credo che ci debba essere sempre anche un contrappunto che dice e discute di qualcosa da un altro punto di vista. L'efficacia della poesia per me è conclamata, io partecipo anche molto colpevolmente poco al mondo della poesia perché non appartiene alla mia quotidianità. A me di un'editrice non mi interessa niente, anzi spesso, così me la meno io, spesso, anzi questo mese, io e li venderei tutti, scrivo la smemoranda, fa un palo di copie, 1.100.000 da 8 anni, sono col cazzo che non c'è il pubblico c'è di brutto, lo settoriamo noi nell'applicarle una definizione, è difficile mettere un quadrato del colore sull'acqua che corre, la poesia è l'acqua che corre, quello di cui noi discutiamo stasera è come far rimanere quel quadrato, e se non è un quadrato ben definito la inquina solo quell'acqua, iniziamo a parlare del pennello e non più dell'acqua che corre, e la cospirazione sarà che è illuminante. I libri non sono esistiti per 9 decimi della storia della poesia, la poesia nasce orale, per nemesi, per sofferenza, che può essere una ricognizione in tranquillità 7 mesi dopo, romanticamente inglese, o può essere l'istinto perché la performance conta, effettivamente. E quindi ho avuto la fortuna, per esempio alla Spezia, di incontrarci un po' tutti, nei pochi contesti, cioè, so che c'è Lello Voce, che è un autore, so che c'è il premio Alberto Dubito, che i ragazzi di Tempi Diversi fanno da noi. Io non recito poesia al chiuso perché per me, e qua ti provoco pure da partigiano e spero rinnovare, per me 700 persone sono nulle, sono pochissime. E in verità è un successo gigante, no? È qualcosa di... Esatto, bravo. La poesia parlerà come il Papa e sarà uno slancio di rivolta, ribellione. Per questo vedo, non vedo tempi bui, vedo, a parte che se i tempi sono bui meglio vedi le stelle, ma prendiamo la rincorsa. Tante cose ci danno per effetto negativo la forza che non abbiamo, come i discorsi che possiamo fare sul canone, no? Per me la poesia è ontologica, fare, se no chi l'ha immaginata per la prima volta, ma fino a quel momento c'era sempre stata, appartiene, ve l'ho detto, per me è il respiro, l'ha immaginata con la parola fare, e quindi cerco sempre di rifarmi a questo fare, quindi... L'anonimato è togliere parole, perché talvolta quando dici poche cose dici tanto, no? L'invisibile essenziale agli occhi, per citare poesia spiccia da terza media, grazie a Dio che v'è. E invece il volto e la responsabilità credo che sia poi una questione di pratiche. E ho iniziato a capire invece io, che ho tutte le mie sane belle espressioni di mediattivismo, oltre che di poesia come strumento sociale, non so chi l'ha detto prima e ne ringrazio, però ho capito che è anche difficile tacciare sé e far parte di una moltitudine che crea dei problemi, è molto più facile non risolverla la contraddizione, quindi intanto il primo merito, poi a me il MEP mi fa cagare, il primo merito è la potenza dell'antitesi, no? E voi ne siete la tesi pura in un esercizio di coesione sociale e mitilanza e militanza che io non ho visto e che non ha paragoni. Noi ringraziamo davvero chi ha partecipato a vario titolo a questo tavolo. Ricordo velocemente 2 appuntamenti, domenica sera l'open mic a cura di Fomofonico, domani sera lo spettacolo di Ivan, Dare la parola, con live painting di Piger, che qua accanto mi sa che sta ancora lavorando. E di nuovo, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ci rivediamo sicuramente nei prossimi giorni e il prossimo anno.